Europa 24. È una buona giornata anche da Anna Migliorati, spazio all'Europa con la Lettonia che sarà il 18° paese ad entrare nella zona euro dal 1 gennaio 2014. È arrivato proprio poco fa il via libera della Commissione europea, il cui parere deve ora essere approvato dai leader europei nell'Ecofin di luglio. Per il commissario Olli Rehn la dimostrazione che chi aveva predetto la disintegrazione della zona euro si sbagliava. A pesare il parere positivo della BCE, la Lettonia rispetta i criteri per entrare nell'euro, ha stabilito la banca centrale in un rapporto in cui tuttavia avverte che sussistono rischi sulla sostenibilità di lungo termine. La Lettonia ha affrontato un programma di risanamento, uno dei più duri imposti da Bruxelles, ha ridotto il suo deficit portandolo all'1,2% e il debito è al 41% del PIL. Intanto ormai guerra aperta tra Unione Europea e Cina. Pechino ha annunciato l'apertura di un'indagine antidumping nei confronti del vino importato dall'Unione Europea. La risposta è arrivata in tempi brevissimi alla decisione di ieri di Bruxelles di imporre dazi ai pannelli solari cinesi. Venti di guerra commerciale tra Europa e Cina, il commissario al commercio Karel De Gucht, scavalcando la pesante opposizione tedesca e di altri 17 paesi, ha annunciato ieri l'imposizione di dazi provvisori sui pannelli solari made in China, dazi che partiranno domani con una quota fissata all'11,8% per proseguire fino al 6 agosto, quando, in mancanza di novità, saliranno fino al 47,6%. Nel frattempo, come ha annunciato De Gucht, Bruxelles e Pechino proveranno a trovare una soluzione amichevole al contenzioso. Il commissario ha aggiunto che la decisione non è stata ispirata dalla paura ma dalla legislazione europea. De Gucht ha così risposto alle critiche di chi teme lo scatenarsi ora di una vera e propria guerra commerciale tra i due blocchi. Il problema dei pannelli solari si trascina da tempo. I produttori comunitari lamentano un'invasione di prodotti cinesi che deterrebbero ormai l'80% del mercato continentale grazie a un export pesantemente sussidiato a livello statale da Pechino. Export che si avvarrebbe di una vendita sotto costo fino all'88% rispetto al valore di mercato. Francia e Italia appoggiano la posizione di Bruxelles, mentre la Germania teme contraccolpi commerciali in un interscambio tra i due blocchi che vale oltre 500 miliardi di euro. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Risposta cinese, dicevamo, che non si è fatta attendere. Pechino ha deciso questa mattina di rivalersi sui vini europei. L'Unione Europea respinge l'accusa. Poco fa il presidente francese François Hollande ha chiesto una riunione urgente dei 27 stati membri e invita a Bruxelles ad avere una posizione decisa. Paolo De Castro, presidente Commissione Agricoltura a Strasburgo, lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Quello che possiamo dire sicuramente come presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, che faremo immediata reazione nei confronti della Commissione al Governo europeo, la Commissione europea, per prendere iniziative in merito a eventuali decisioni cinesi di mettere dei limiti all'accesso del mercato cinese, in particolare di prodotti alcolici o vino o altro. Quindi avere una politica da parte della Commissione più aggressiva nei confronti dei problemi del commercio. È la stessa cosa che abbiamo detto nei confronti degli Stati Uniti quando poi abbiamo risolto il problema della vescicolare suina che ha aperto il mercato per i nostri prosciutti, eccetera. Analogamente la Commissione deve mostrare la stessa grinta, la stessa volontà per evitare che la Cina porti in questo terreno problemi alle produzioni europee, in particolare per il vino. E andiamo a Bruxelles ora, oggi è giornata verde, così Laura Bettini. Buongiorno da Bruxelles, dove si svolge la più grande conferenza annuale dedicata alle politiche ambientali, la Green Week, la settimana verde della Commissione europea organizzata dalla Direzione Generale Ambiente. L'aria è il tema di quest'anno dopo quelli di acqua ed energia affrontati nelle edizioni passate. L'aria dell'Europa è molto migliorata negli ultimi decenni, ha sottolineato il commissario all'ambiente Patočnik, ma c'è molto da fare ancora. La Commissione sta rivedendo le sue politiche per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo e questa qui. Quindi è l'occasione, il momento giusto per studiare insieme in che direzione muoversi. Sono migliaia davvero i partecipanti, sono addetti ai lavori, giornalisti, ma anche semplici cittadini che nello specifico di questa giornata hanno seguito le due sessioni che al momento sono risultate particolarmente interessanti. Quella sugli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana è una sessione che è ancora in corso, di cui magari Anna parleremo nelle prossime edizioni, e quella sulle difficoltà che le regioni, le aree quindi piccole dell'Europa incontrano nell'applicare la normativa e le direttive europee. Ha coordinato questo incontro il professor Antonio Ballarin Denti dell'Università Cattolica di Brescia, docente di fisica ambientale. Queste sono le sue conclusioni. Si ha l'impressione che nonostante il forte aiuto delle politiche comunitarie, il peso grosso dell'agire in modo efficace sta sulle spalle degli amministratori locali, i quali devono, a mio giudizio, essere dotati, diciamo, di maggiori capacità, per esempio, di interagire tra di loro, di comunicare, di raccogliere e scambiare buone pratiche. È tutto da Bruxelles, a voi la linea. Grazie Laura Bettini, allora anche con te ci risentiremo nella nostra prossima finestra sull'Europa alle 15. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.